Nel caso il DDL Alfano sulle intercettazioni passasse, contiene questo comma 29, cosiddetto ammazzablog, che costringerebbe chi non pubblica le rettifiche entro 48 ore a pagare una multa di 12.000 euro. Allora, se questo DDL dovesse essere approvato, che cosa cambierebbe nel lavoro di voi blogger? Il comma 29 va a toccare il portafogli delle persone. Si impone una rettifica che normalmente si impone ai giornalisti, che però sono difesi dagli avvocati del proprio editore. I blogger invece questo non potranno farlo. Devo dire che per me non è un problema, ad esempio, perché il mio server, come quello dei tanti che usano Google, Blogger o altre piattaforme, i nostri blog sono in America, quindi la vedo molto difficile che la legge italiana possa farci qualcosa. E i nomi premiati all'interno di queste blogfest, giunta ormai alla sua settima edizione, tendono bene o male a ripetersi negli anni. È una questione che c'è una casta dei blogger o è semplicemente il panorama italiano che non fornisce molti nomi? Sicuramente il panorama italiano non è assolutamente paragonabile a quello statunitense. Lì ci sono dei blogger che sono diventati editorialisti dei giornali, addirittura alcuni editorialisti di giornali che sono diventati blogger perché gli conveniva di più. Questa seconda parte da noi ancora non è possibile. Diciamo che io sento parlare di casta anche da quando eravamo in cinque. Ed è vero che quei cinque sono rimasti, quindi capisco che si possa fare questa obiezione. In realtà parliamo di un giardino abbastanza ristretto. Sarebbe molto bello se molta più gente decidesse di esprimersi sulla rete, e credo che i blogger sarebbero solo contenti di questo. Noi, come Blogfest, premiando i blog, ovviamente non possiamo esimerci da premiare quelli che sono sulla cresta dell'onda e che hanno milioni di contatti. Però abbiamo introdotto molte categorie proprio per fare in modo che possano venire fuori dei blogger nuovi ogni anno. Quindi premiamo le rivelazioni, premiamo quelli che si sono fatti vedere nel corso dell'anno, mettiamo tante nomination, costringiamo tutti a votare per tutte le categorie, perché immaginiamo che, a parte che è quasi un atto di fede, che però per votare uno vada a vederseli e che quindi possa essere un'occasione per andare a visitare dei blog che magari non sono importanti come Mantellini, Sofri, Spinosa o Macchia Nera, ma magari un blogger di cui nessuno ha sentito parlare, che però è molto creativo.